Allora, per dirla proprio facilissima, la vittimizzazione secondaria avviene quando una donna che ha subito violenza ne subisce un'altra. Faccio un esempio che secondo me conosciamo tutte e tutti. Dopo lo stupro di Palermo e anche quello di Caivano, Andrea Gianbruno, che è giornalista, ex compagno di Giorgia Meloni, durante la puntata di un programma su Rete4 ha detto che se vai a ballare hai il diritto di ubriacarti, ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti di incorrere anche in determinate problematiche, perché poi il lupo lo incontri, lo trovi. Questa frase spiega molto bene che cos'è la vittimizzazione secondaria, cioè la donna, la soggettività che ha subito una violenza che si può chiamare primaria, rivive poi delle condizioni traumatiche o subisce un'altra violenza da parte proprio di quei soggetti che non sono gli autori della violenza primaria e rivive e subisce altra violenza proprio nel momento in cui sceglie di parlare, di cercare aiuto per riuscire dalla situazione in cui si trova, per esempio denunciando. Quindi diciamo la vittimizzazione secondaria non si verifica come diretta conseguenza dell'atto criminale, per esempio un abuso subito, lo stupro, eccetera, ma attraverso la risposta che le istituzioni e altri soggetti ancora danno alla vittima, quindi possono essere i familiari della vittima, le istituzioni o i giornali. E di fatto, diciamo, il meccanismo che si attiva è che l'attenzione o la responsabilità viene spostata dalla persona che ha commesso la violenza alla persona che invece l'ha subita. È una forma di violenza molto diffusa, come abbiamo detto, può avvenire nel contesto sociale, sui giornali per come raccontano la violenza maschile, può avvenire durante la fase di denuncia alle cosiddette forze dell'ordine, oppure quando si entra in contatto con i servizi sociali, con gli ospedali e anche all'interno dei percorsi giudiziari nei vari tribunali. Dipende da una mancata conoscenza del fenomeno della violenza stessa maschile contro le donne, anche da una radicata cultura dello stupro, nella quale quindi diciamo non solo la violenza, gli abusi di genere sono molto diffusi e normalizzati, ma dove sono normalizzati proprio anche tutti quegli atteggiamenti che giustificano e che sostengono quella violenza. Quindi si alimenta banalmente con i pregiudizi, gli stereotipi sessisti, che minano per esempio la credibilità delle donne che parlano della violenza subita, si concretizza nelle accuse di non aver denunciato prima quella violenza, è vittimizzazione secondaria anche quando si dice che la vittima se l'è andata a cercare, ha una responsabilità per come era vestita, per le abitudini che aveva, eccetera, eccetera. E naturalmente anche vittimizzazione secondaria a diffondere o pubblicare immagini o video della violenza subita. La cosa che mi preme dire è che la vittimizzazione secondaria ha delle conseguenze davvero molto concrete, non solo se avviene durante i processi penali o civili o nei tribunali minorili, ha proprio conseguenze sul benessere, sulla salute, sulla sicurezza delle persone che hanno subito la violenza primaria e anche sulla loro determinazione poi a parlare di quello che hanno subito o di cercare aiuto per uscirne. Quello che voglio dire è che induce, per esempio, le donne a non andare da un medico, a non Certo. denunciare, favorisce l'occultamento e chiaramente instilla anche un senso profondo di sfiducia nelle istituzioni. Tutta questa cosa, appunto, parleremo, come ricordavi tu, in questo incontro all'interno del festival che è arrivato alla sua 18ª edizione, si terrà in un luogo importante per il femminismo, che è la Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna, che lavora dall'inizio degli anni 90, quindi insomma una realtà molto importante. Il festival è esteso, dura 16 giorni, si concluderà il 10 dicembre e io ne parlerò per quel che mi riguarda naturalmente nell'ambito dei media. Con me ci sarà Claudia Torrisi, che è un'altra giornalista che si occupa spesso di questioni di genere, e poi invece ci saranno Fabio Roia, che è il presidente del Tribunale di Milano, presidente vicario del Tribunale di Milano, Lucia Russo, che è una procuratrice della Repubblica, Elena Biagioni, che è una penalista e anche la vicepresidente di Dire, che è la rete dei centri antiviolenza che rispettano la Convenzione di Istanbul, e poi ci saranno Elsa Antonioni e Giulia Nanni, che invece sono operatrici di accoglienza delle case della Casa delle Donne, e la moderazione è affidata alla giornalista Gigi Marcante. Perfetto Giulia, grazie anche per averci raccontato chi salirà insomma insieme a te sul palco il 1° dicembre all'interno appunto del festival. Ti volevo chiedere Giulia, da dove si può partire per un cambiamento? Perché è possibile, insomma. Allora, speriamo che sia possibile. Naturalmente non c'è un'unica risposta. Certo. Io penso che qui siamo addirittura al grado zero, cioè nelle varie, come dire, istituzioni, nei vari soggetti coinvolti che abbiamo nominato prima, manca proprio il riconoscimento della violenza di genere, quindi è necessario fare un grossissimo lavoro di formazione su questo. Va poi modificato profondamente come la giustizia risponde alle donne, alle soggettività che hanno subito della violenza. Chi giudica spesso non solo non ha un'adeguata formazione, ma è anche intriso di stereotipi e pregiudizi sessisti. Dal punto di vista dei media, sarebbe sufficiente, diciamo, fare quel che il giornalismo dovrebbe fare, quindi dare un'informazione buona, completa, informata per informare, che al minimo, diciamo, assuma una prospettiva di genere e che nel migliore dei casi assuma una prospettiva femminista. Di fatto va proprio cambiata la mentalità, quindi nei luoghi dove si fa informazione, dove si fa cultura, dove ci si educa e negli ambiti anche in cui si detta legge. Non serve solo la volontà di farlo, è necessario affidarsi a chi di queste questioni si occupa da decenni con enorme competenza, quindi alle femministe, e servono soprattutto moltissimi soldi.